elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre in mezzo a una compagnia d'addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide e rabbrividì. Scese con l'occhio giù per la china fino al suo paesello. Guardò fisso all'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera. E seduta com'era, nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte come per dormire e pianse segretamente. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta. Si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose, le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade. Pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco, a suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli, neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa, chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio casa natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. L'urtar che fece la barca contro la proda scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugate in segreto le lacrime, alzò la testa come se si svegliasse. Renzo uscì il primo e diede la mano ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia, e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiolo. «Di che cosa?» rispose quello. «Siamo qua giù per aiutarci l'uno con l'altro». E ritirò la mano quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare, allorché Renzo cercò di farvi sdrucciolare una parte dei quattrinelli che si trovava indosso e che aveva presi quella sera, con intenzione di regalar generosamente don Abbondio quando questo l'avesse suo malgrado servito. Il baroccio era lì pronto. Il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla bestia, una frustata e via. Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno. Tace il nome del paese dove Fra Cristoforo aveva indirizzate le due donne. Anzi, protesta espressamente di non lo voler dire. Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a una famiglia, come pare, molto potente al tempo che l'autore scriveva. Per rendere ragione della strana condotta di quella persona nel caso particolare, egli ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente. E la famiglia ci fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere. Ma ciò che la circospezione del povero uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese che ha avuto a far menzione di quella persona medesima non nomina, è vero, né lei né il paese, ma di questo dice che era un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava altro che il nome. Dice altrove che ci passa il Lambro, altrove che c'è un arciprete. Dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza, senz'altro. Nel vasto tesoro delle induzioni erudite ce ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sicure non crederei. Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia, ma sebbene sia estinta da un pezzo, ci par meglio lasciarlo nella penna per non metterci il rischio di far torto neppure ai morti e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca. I nostri viaggiatori arrivarono dunque a Monza, poco dopo il levar del sole. Il conduttore entrò in un'osteria e lì, come pratico del luogo e conoscente del padrone, fece assegnar loro una stanza e ve li accompagnò. Tra i ringraziamenti Renzo tentò pure di fargli ricevere qualche danaro, ma quello, al pari del barcaiolo, aveva in mira un'altra ricompensa, più lontana, ma più abbondante. Ritirò le mani anche lui e, come fuggendo, corse a governare la sua bestia. Dopo una sera quale l'abbiamo descritta e una notte quale ognuno può immaginarsela, passate in compagnia di quei pensieri, col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole, al soffio di una brezzolina più che autunnale e tra le continue scosse della disagiata vettura che ridestavano sgarbatamente chi di loro cominciasse appena a velar l'occhio, non parve vero a tutte e tre di sedersi su una panca che stava ferma in una stanza, qualunque fosse. Fecero colazione, come permetteva la penuria dei tempi e i mezzi scarsi in proporzione dei contingenti bisogni d'un avvenire incerto e il poco appetito. A tutte e tre passò per la mente il banchetto che due giorni prima s'aspettavano di fare e ciascuno mise un gran sospiro. Renzo avrebbe voluto fermarsi lì almeno tutto quel giorno, vedere le donne allogate, rendere loro i primi servizi, ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo subito per la sua strada. Addussero quindi esse e quegli ordini e 100 altre ragioni che la gente ciarlerebbe, che la separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, che egli potrebbe venir presto a dar nuove e a sentirne, tanto che si risolvette di partire. Si concertarono come poterono sulla maniera di rivedersi più presto che fosse possibile. Lucia non nascose le lacrime, Renzo trattenne a stento le sue e, stringendo forte forte la mano ad Agnese, disse con voce soffocata: «Arrivederci!» E partì. Le donne si sarebbero trovate ben impicciate se non fosse stato quel buon barocciaio che aveva ordine di guidarle al convento dei Cappuccini e di dar loro ogni altro aiuto che potesse bisognare. S'avviarono dunque con lui a quel convento, il quale, come ognun sa, era pochi passi distante da Monza. Arrivati alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chiamare il padre guardiano. Questo venne subito e ricevette la lettera sulla soglia. «Ah, Fra Cristoforo!» disse, riconoscendo il carattere, il tono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente che proferiva il nome d'un grande amico. Convien poi dire che il nostro buon Cristoforo avesse in quella lettera raccomandate le donne con molto calore e riferito il loro caso con molto sentimento, perché il guardiano faceva di tanto in tanto atti di sorpresa e di indignazione e, alzando gli occhi dal foglio, li fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e di interesse. Finito che ebbe di leggere, stette lì alquanto a pensare, poi disse: «Non c'è che la signora, se la signora vuol prendersi quest'impegno». Tirata quindi Agnese in disparte, sulla piazza davanti al convento, le fece alcune interrogazioni alle quali essa soddisfece e, tornato verso Lucia, disse a tutte e due: «Donne mie, io tenterò e spero di potervi trovare un ricovero più che sicuro, più che onorato, finché Dio non v'abbia provvedute in miglior maniera. Volete venire con me?» Le donne accennarono rispettosamente di sì e il frate riprese: «Bene, io vi conduco subito al monastero della signora. State però discoste da me alcuni passi, perché la gente si diletta di dir male e Dio sa quante belle chiacchiere si farebbero se si vedesse il padre guardiano per la strada con una bella giovine, con donne, voglio dire». Così dicendo andò avanti. Lucia arrossì. Il barocciaio sorrise guardando Agnese, la quale non poté tenersi di non fare altrettanto, e tutte e tre si mossero. Quando il frate si fu avviato, e gli andarono dietro 10 passi di scosto. Le donne allora domandarono al barocciaio ciò che non avevano osato al padre guardiano: chi fosse la signora? «La signora», rispose quello, «è una monaca, ma non è una monaca come l'altre. Non è che sia la badessa né la priora, che anzi, a quel che dicono, è una delle più giovani, ma è della costola d'Adamo. E i suoi del tempo antico erano gente grande, venuta di Spagna, dove sono quelli che comandano. E per questo la chiamano la signora, per dire che è una gran signora. E tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in quel monastero non hanno mai avuto una persona simile, e i suoi d'adesso laggiù a Milano conta molto e sono di quelli che hanno sempre ragione. E in Monza anche di più, perché suo padre, quantunque non ci stia, è il primo del paese, onde anche lei può far alto e basso nel monastero. E anche la gente di fuori le porta un gran rispetto, e quando prende un impegno le riesce anche di spuntarlo, e perciò se quel buon religioso lì ottiene di mettervi nelle sue mani e che lei v'accetti, vi posso dire che sarete sicure come sull'altare». Quando fu vicino alla porta del borgo, fiancheggiata allora da un antico torracchione mezzo rovinato e da un pezzo di castellaccio diroccato anch'esso, che forse 10 dei miei lettori possono ancora rammentarsi d'aver veduto in piedi, il guardiano si fermò e si voltò a guardare se gli altri venivano. Quindi entrò e s'avviò al monastero, dove, arrivato, si fermò di nuovo sulla soglia aspettando la piccola brigata. Pregò il barocciaio che tra un par d'ore tornasse da lui a prendere la risposta. Questo lo promise e si licenziò dalle donne, che lo caricarono di ringraziamenti e di commissioni per il padre Cristoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo cortile del monastero, le introdusse nelle camere della fattoressa e andò solo a chiedere la grazia. Dopo qualche tempo ricomparve Giulivo a dir loro che venissero avanti con lui, ed era ora, perché la figlia e la madre non sapevano più come fare a districarsi dalle interrogazioni pressanti della fattoressa. Attraversando un secondo cortile, diede qualche avvertimento alle donne sul modo di portarsi con la signora. «È ben disposta per voi altre», disse, «e vi può far del bene quanto vuole. Siate umili e rispettose, rispondete con sincerità alle domande che le piacerà di farvi, e quando non siete interrogate, lo lasciate fare a me». Entrarono in una stanza terrena, dalla quale si passava nel parlatorio. Prima di mettervi il piede, il guardiano, accennando l'uscio, disse sottovoce alle donne: «È qui», come per rammentar loro tutti quegli avvertimenti. Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatorio guardò in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino, e non iscorgendo persona stava come incantata. quando, visto il padre Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte e vide una finestra d'una forma singolare, con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l'una dall'altra un palmo, e dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrar 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non d'inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi neri neri anch'essi si fissavano talora in viso alle persone con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa? Chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti? Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne non esercitate a distinguere monaca da monaca, e il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo come tant'altri a quel non so che di strano che appariva nella sua persona come nelle sue maniere. Paola Pitagora ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.